Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, noi del coordinamento Lesbiche Romane abbiamo voluto preparare un contributo per questa lunga diretta dell'8 marzo qui a Radio Onda Rossa. Abbiamo pensato di farvi ascoltare le voci di molte lesbiche che conosciamo, giovani e meno giovani, che hanno fatto parte sia del movimento lesbo-femminista degli anni 70, sia del periodo antecedente agli anni 70 e, come ascolterete nelle interviste, alcune ne fanno ancora parte. Per molte nel corso della propria vita l'8 marzo è stato importante per ragioni diverse, non necessariamente solo per una condivisione politica, politica con la P maiuscola per capirci. Per ognuna di noi è stato anche, magari un passaggio fondamentale, una presa di coscienza del potere del patriarcato o della violenza della polizia, è stato un contesto che ha permesso di entrare in contatto con altre donne attraversando una modalità completamente nuova. Per alcuni ha significato percepire la grandezza di una nuova comunicazione, per altri ancora, tra le quali mi metto anch'io, ha significato avere un'occasione per scoprire l'effettiva presenza di realtà di cui si sapeva l'esistenza, ma che era difficile individuare in un contesto generale. Sto parlando di un'epoca, la mia, nella quale internet non c'era ancora, non aveva preso piede come oggi e quindi non era proprio così semplice rintracciare altre donne lesbiche. Io ricordo ad esempio di aver visto il primo striscione lesbico durante una manifestazione proprio dell'8 marzo intorno agli anni 77-78 più o meno, striscione che ho seguito rigorosamente da lontano per non farmi confondere con loro. Soltanto in un altro corteo dell'8 marzo di qualche anno dopo non mi sono limitata a seguire da lontano, ma ho fatto il mio primo passo, forse uno dei più importanti. Uno dei tanti risultati significativi di quel periodo per me fu quello di entrare per la prima volta allo Zanzibar. Zanzibar è stato il primo locale lesbico che venne aperto nel 1978 e di cui ancora conservo gelosamente la tessera. Quindi l'8 marzo ha avuto per ognuna di noi un'infinità di significati. Per tutti questi motivi ci è sembrato carino a noi del coordinamento Lesbiche Romane chiedere alle lesbiche che conosciamo di raccontarci il loro 8 marzo, cioè volevamo che ognuna ci raccontasse l'8 marzo più significativo, che cosa aveva rappresentato, che cosa aveva significato per loro stesse. Quelle che sentirete saranno le voci delle donne che abbiamo intervistato, quindi non ci resta che partire ringraziando però Anna, Elena, Cristina, Claudia, Angela, Nadia, Maria Grazia, Marisa, Graziella, Edda, Giovanna 1 e Giovanna 2, Maria, Carlina, Novella, Paola e Susanna. A questo punto vi auguriamo buon ascolto. Per il martedì lesbico, femminista e autogestito. Siamo qui con due attrici che abbiamo visto da poco per il loro spettacolo che si chiama Punti di Vista, Spunti di Vista. Adesso chiediamo ad Angela e ad Elena cosa pensano o qual è un 8 marzo che è piaciuto loro. Inizia Elena, sì. Vai. Allora guarda, l'8 marzo, beh, non è che ce ne sia uno particolare che mi viene in mente, comunque è una ricorrenza importante per le donne, perché si ritrovano insieme, no? Però io con le donne mi ci ritrovo sempre, quindi per me è 8 marzo tutti i giorni. Ho capito, quindi tu per te l'8 marzo... Per te l'8 marzo è il 7, il 6, il 9, il 10? Sì, sì, okay. È sempre 8, dovrebbe essere così, dovrebbe essere sempre 8 marzo. Sì. Grazie, grazie Elena. Angela, per te? Beh, l'8 marzo, sì, festa della donna, in realtà poi, come dire, si ricordano sempre invece i diritti mancati, la felicità mancata spesso, quindi spesso viene più ricordata, come dire, la mancanza, sì, dei diritti delle donne, quindi della loro libertà, autodeterminazione, quindi il diritto alla felicità, poi come contraltare anche una giornata di festa. Io devo dire, in passato lo festeggiavo molto, ultimamente, ecco, sì, ritengo che l'8 marzo sì, sia una data simbolica, ma come Elena, ecco, io cerco di fare un 8 marzo costante tutto l'anno. Grazie Angela. Siamo qui con Cristina che adesso ci dirà, se ha voglia, ovviamente, qual è un 8 marzo che lei ricorda o con piacere oppure per lei è stato significativo. Vai Cristina. Allora, l'8 marzo per me significativo sono il 1984, dove a governo vecchio occupato avevamo deciso appunto di dare un taglio appunto l'8 marzo, perché l'8 marzo per noi già non c'era più significato, in quanto già era stato istituzionalizzato secondo noi. Per cui abbiamo fatto questi manifesti con delle forbici che dicevano appunto 8 marzo, diamoci un taglio, in cui c'era in qualche modo il doppio senso, nel senso in cui pensavamo con queste forbici tagliare gli attributi ai maschi, quindi alla società fallocratica, e in qualche modo tagliare, dare un taglio all'8 marzo, perché effettivamente ci aveva già stancato, insomma. Ecco, qua. Grazie Cristina, molto bello. Siamo qui con Claudia. Claudia è stata una nostra compagna nel CLR, con piacere le chiediamo per lei, grande chitarrista fra l'altro, le chiediamo per lei qual è stato un 8 marzo che ricorda, oppure che cosa pensa dell'8 marzo oggi. Allora, io ricordo che in passato, almeno finché appunto frequentavamo così, non ci piaceva più santificare l'8 marzo, tant'è vero che io, che facevo parte del gruppo Le Piume, avevamo fatto una canzone per l'8 marzo che faceva così: non abbiamo sante nel nostro calendario, non siamo molto facili da santificare, siamo donne imprevedibili, non ci si può fidare, e l'unica giornata ce l'hanno annualizzata con l'8 marzo poi istituzionalizzata, eccetera eccetera. E quindi pensavamo appunto con questa canzone di buttare giù questo mito dell'8 marzo, che ci avevamo fatto due cose così, due balle così. Va bene, grazie Claudia, e questa mi sembra una testimonianza assolutamente calzante. Grazie a te. Ciao. Aspetta, allora, siamo ancora per l'8 marzo, la lunga del martedì femminista e lesbica autogestito di Radio Onda Rossa. Siamo qui con Maria Grazia, la nostra amica Migi, che da Bolzano adesso ci dice per lei invece, Migi è stata un po' ovunque, anche qui a Roma, e la nostra vecchia compagna, e ci dice per lei se c'è un 8 marzo significativo e che cosa, che significato ha? Ma guarda, evitando di dire rimembrare il passato, posso dirti che quello che vive adesso a Bolzano per quanto riguarda l'8 marzo è abbastanza interessante, perché a Bolzano c'è una realtà particolare, come forse qualcuno saprà, cioè c'è una comunità di lingua tedesca, una comunità di lingua italiana che convive nella stessa città, per cui l'8 marzo è un momento di aggregazione delle due diverse realtà, quindi si creano anche delle iniziative bilingue, cioè sia in italiano che in tedesco, con proiezioni, discorsi, insomma è una realtà nuova per chi non ci ha mai vissuto, pochi lo sanno, però esiste questa cosa delle donne che cercano di far dialogare queste due culture. E quindi è interessante. Sì, è una realtà diversa per noi, insomma, che non l'abbiamo mai vissuta. È un cambiamento sia per me che per insomma, le nuove che si sono trasferite là. Grazie. Grazie. E adesso qui c'è invece Graziella, e Graziella anche ci dirà per il martedì femminista e lesbica autogestito di Radio Onda Rossa qual è un 8 marzo che per lei è stato bello, interessante, significativo, insomma, che cosa ci dici dell'8 marzo? Guarda, tanti sono passati da 8 marzo, tutti sono stati belli, forse uno in particolare mi è venuto in mente mentre tu me lo chiedevi, è stato nell'83, quando l'anno prima avevo vinto un concorso, ma mi hanno mandato a Bologna, dopo un anno mi hanno trasferito a Roma. E uscendo dal mio ufficio, felicissima che ero riuscita ad arrivare qui, così tanto aspirato, sognato di venire a Roma, e mi ero dimenticata che era l'8 marzo, sono scesa dall'ufficio, ho trovato la manifestazione, non ti puoi immaginare, dentro una grossa felicità, vedere tutte queste cose è stato proprio, come dire, un clou di quella giornata, e mi è rimasto molto impresso. E quindi erano però anche tempi in cui l'8 marzo le manifestazioni, stai parlando del 1983, le manifestazioni di donne per l'8 marzo erano imponenti ed avevano anche dei grossi... Sì, mi ricordo che stavo correndo a prendere il treno per tornare al mio paesello e non ci sono riuscita, ma felicissima perché mi sono aggregata, sì, chiaramente, non finiva mai questo corteo, era veramente lungo, lungo. Bello, donne, bellissimo. Grazie. Aspetta, c'è Marisa, ancora un'altra donna, un'altra compagna, che adesso ci dirà per lei il significato, qual è stato un 8 marzo significativo che le è piaciuto, oppure che cosa pensa dell'8 marzo. No, io ti dirò qual è l'8 marzo che pregusto. Quale? È il prossimo, perché ho appena fatto outing in ufficio, quindi se le colleghe mi chiedono se voglio andare a vedere con loro gli spettacoli di maschietti inutili, no grazie, vado con la mia compagna, vado a fare qualcosa, quindi è una cosa nuova per me. Sono contenta, allora complimenti per il tuo outing in ufficio e tanti tanti outing allora. Allora, Nadia, le è venuta in mente qualcosa di specifico per un 8 marzo e quindi adesso ce lo dirà al martedì femminista e lesbica autogestito per la nostra lunga diretta. Vai Nadia. Mi sono ricordata che di un 8 marzo in cui stavo a Teheran, perché lavoravo a Teheran come corrispondente dell'ANSA, siccome lì sarebbe vietato festeggiare o comunque celebrare la giornata della donna, delle donne, però nel 98, che c'era questo presidente riformista, hanno potuto fare non una manifestazione ma una riunione al chiuso, e quindi questo è stato un evento, perché è stato, si esprimevano molto liberamente queste donne, cosa molto rara. Grazie, grazie, è veramente bella come testimonianza. Ciao, grazie. oh come sarai dolce. Se con le mani calde ti dicessi bravo, e come sarai forte. Se camminassi a fianco a te senza farti ombra, ti venderai la storia delle mie paure, ti venderai un sorriso e avrai il tuo amore. Io sono ora, ora che sono questa, che posso stare sola rimanendo me stessa. Tutte tue le notti, non ne voglio una mia, voglio molto meno, voglio andare via. Allora, siamo qua per il martedì femminista e lesbica autogestito, qui con me c'è Anna e adesso chiediamo a lei un 8 marzo che ricorda e che le è piaciuto. Beh, mi ricordo soprattutto quello in cui ci fu Sonia che fece la grande statua del patriarcato e che poi portammo per tutta Via Nazionale. Io facevo la vedova inconsolabile del patriarcato. Bellissimo. E devo dire che poi ho avuto delle belle fotografie da una mia amica e questa poi grandissima costruzione che aveva fatto Sonia era molto alta. Arrivammo con questa costruzione fino a Piazza Navona e a Piazza Navona gli abbiamo dato fuoco. Era una cosa bellissima, era il, penso il 74, 1974. Che meraviglia, Anna, quindi erano bei ricordi e belle cose praticamente. E poi noi eravamo piuttosto combattive. Sì, piuttosto accese. Senti, ma tu come vedova del patriarcato, come eri vestita? Tutta di nero? Ero vestita tutta di nero, avevo un mantello proprio lungo, con gli stivali lunghi, è una cosa così incredibile. Beh, qualche volta mi devi far vedere le foto, Sì, sì, è una foto abbastanza... è andata molto in giro perché era pure molto caratteristica, non per me, insomma. Grazie, Anna. Grazie a te, cara. Siamo qui con Giovanna, anche lei una femminista storica che ha fatto parte del gruppo di Pompeo Magno e ci dirà qual è stato un suo 8 marzo che ricorda, che per lei è stato significativo. Quale, Giovanna? Veramente non è che me lo ricordo solo io, perché se lo ricorda tutta Italia, perché lì siamo state caricate dalla polizia l'8 marzo del 72 e io sono andata lì con mia figlia, perché io sono lesbica, però ho anche una figlia, perché sono anche stata sposata come molte donne, certo, di una volta, certo. Non è che potevano allargarsi come si allargano adesso, certo. Cosa, però a noi non ci riconoscono niente, però non importa. E niente, 72 siamo andate lì pensando di fare una piccola manifestazione, è arrivata la polizia, ci ha caricato. Io sono lì con mia figlia, allora aveva 7 anni, piccolissima. Questa piccola pazza di 7 anni ha preso il microfono e ha detto al poliziotto: voi avete paura di noi. Questo si è messo, il commissario si è messo la fascia tricolore, ha ordinato la carica e lì ci sono venuti tutti addosso, hanno ferito Alma Sabatini e io ho tirato fuori a forza una mia amica, non mi ricordo più il nome, che stava per essere portata via, hanno spaccato la testa Alma. Io e mia figlia me l'ero persa, perché allora le compagne sono venute vicino a me e mi hanno detto: Giovanna, non ti preoccupare, l'abbiamo messa, siamo dentro sta dentro un negozio. E niente, questa cosa è finita così, però il giorno dopo era su tutti i giornali e questo commissario, che fra l'altro ha fatto pure una carriera all'interno della polizia, era uno che si chiamava Cavaliere. E sul giornale il giorno dopo c'era scritto Cavaliere, ma non troppo, ecco. Perché infatti ce l'ha accorcato le botte. Ecco, ti qua. Saluto. Grazie. Basta, Giovanna, ciao. Sei grande, ciao. Quello dedicato a Carla Rossi. Aspetta un attimo. Allora Maria, per Maria, qual è stato l'8 marzo per te più significativo? Più significativo, quello che mi viene subito in mente è quello di pochi anni fa, quando abbiamo realizzato un convegno dedicato a Carla Lonzi, che appunto si intitolava Taci, anzi parla, ed era proprio non solo casualmente, ma un po' anche perché è stato un lavoro abbastanza imponente quello che l'ha preceduto, però organizzato e poi realizzato alla Casa Internazionale delle Donne appunto in quei giorni, per l'8 marzo praticamente. L'8 marzo, sì. E quindi un convegno a parte credo interessante, importante, molto partecipato, perché ci furono donne che venivano da tutta Italia e questo credo fu anche un bel momento in questo senso, anche non solo per la rivisitazione del pensiero, ma per una pratica sull'immediato dello stare insieme. Grazie Maria. E allora qui abbiamo con noi anche Giovanna e poi ci sono altre donne e parleremo anche con altre donne. E Giovanna, invece per te qual è, se ricordi un 8 marzo in particolare oppure qualcosa di significativo per te in questa data, l'8 marzo? Il primo 8 marzo, quando ero piccola, fui portata in piazza Rimini dove abitavo, dove c'era un gruppo di donne che vendevano i donne dalla mimosa. Ed ero giro con mio padre che mi disse è la festa delle donne e quindi portiamo la mimosa alla mamma. E io dico come la festa delle donne? E dice sì, perché noi comunisti intendiamo che le donne sono brave, intelligenti e vogliamo che migliorino e quindi gli facciamo la festa. E questo quindi è il primo 8 marzo che tu ricordi? Sì, avevo 8 anni, erano gli anni 50 ancora. E lo ricordi con piacere a questo punto? Sì, poi molti anni dopo abbiamo fatto un altro 8 marzo bellissimo, fu uno spettacolo che facemmo in piazza a Rimini, dove io all'epoca facevo la femminista, abitava a Rimini. Siamo nel 74 e io e mia sorella facemmo un pezzo chiamato Le sorelle pompesse per voi, che noi si chiamavamo Pompili, e ballammo il ballo famoso delle Kessler, Dada Umpa, sugli anticoncezionali, che cominciava, ci hanno dato la pillolina, la spirale ci fa male, era tutta una canzone in piazza a Rimini, a piazza Cavour, con non so, migliaia di persone che ci volevano tirare i pomodori. Ecco, bellissimo, grazie Giovanna, siamo per la lunga, la giornata dell'8 marzo, per il martedì femminista e lesbica autogestito di Radio Onda Rossa, e adesso siamo con Carlina, attrice livornese, e sentiamo per lei l'8 marzo, un 8 marzo che ti è piaciuto, oppure che cosa per l'8 marzo? L'8 marzo più significativo è stato, guarda, una decina d'anni fa all'isola d'Elba. All'isola? D'Elba. L'isola d'Elba, Toscana, Piombino, presente Piombino, davanti c'è l'isola d'Elba. Lavoro lì come precaria, pendolare, incazzata nera, ma insieme a altre compagne e colleghe si organizza questo 8 marzo. Quindi la mattina si va a fare la spesa, si inizia a preparare dei piatti fototonici, tipo mi ricordo questo risotto alla rosa, perché si poteva cucinare, la mimosa no, ma la rosa sì. Quindi questo risotto si mangia e poi si va in spiaggia. Giornata di sole, ma sempre 8 marzo, ma che vuoi, siamo all'isola d'Elba, quest'acqua meravigliosa, ci si spoglia e via dentro l'acqua, un freddo della Madonna, si ritorna contente, però dopo 3 ore si incomincia, chi starnutiva, chi tossiva, io il broncopolmonite, però mi è rimasto dentro questo 8 marzo, l'ho proprio vissuto pienamente, con la massima consapevolezza, viva, si patisce ma si arriva a festeggiare, ecco l'8 marzo che mi ricordo. Grazie Carlina. Prego, prego. Qui con me c'è Novella e anni 66, gli anni di Novella, e Novella adesso ci dice qual è il suo 8 marzo, quello che ricorda, quello che le è piaciuto. Quello che io ricordo, che io credo che sia stato il 1973, il primo 8 marzo, ecco, il primo 8 marzo al quale io ho partecipato, credo che sia stato il 73, o potrebbe anche essere il 74, però il 74 forse era l'anno del divorzio. E eravamo a Largo Argentina ed eravamo 25-30 femministe con i nostri bei cartelli, e fu fatta una fotografia che è la prima pagina di F, uno dei primi F che uscirono allora. E c'è questa foto in prima pagina di queste 30, credo, non di più, femministe che facevano questa manifestazione, tutte belle separate, no? Per sembrare un po' di più. E mi ricordo questa immagine di noi a Largo Argentina, io ero molto felice, ero molto contenta. Grazie Novella. Allora, siamo qui per la diretta e lunga per l'8 marzo del martedì femminista e lesbica autogestito di Radio Onda Rossa. C'è qui con noi Susanna, e Susanna, ci sai dire per te qual è stato un 8 marzo o quali 8 marzi di ricordi, 8 di marzo di ricordi che ti sono piaciuti? Quando piaciuti non ti saprei dire, però ricordo molto bene le manifestazioni che facevamo, ti sto parlando dell'inizio inizi degli anni 70, che ancora giravamo, come ricordo che facevo parte del servizio, avevamo ancora il servizio d'ordine, e veramente fuori dal corteo c'erano i maschi che ti facevano le battute pesanti, che ti dicevano io vi manderei tutto all'acquaio, io ve lo farei vedere di cosa avete bisogno, e che era un clima molto pesante, ma tra di noi c'era uno spirito così forte che poi non ho ritrovato più quando l'8 marzo è diventata una festa più commerciale, non l'ho ritrovato più, però quello lo ricordo, quelli, perché erano tanti ed erano ancora importanti, poi a un certo punto sono, come dire, stati fagocitati dall'aspetto commerciale e i maschi ti regalano la mimosa, capito? E quindi non hanno più senso ora. Hanno più, sì, no, poi proprio l'8 marzo diventa una commemorazione, come tutte le commemorazioni non ha proprio più senso. All'epoca era un po' diverso, ecco, ma eravamo diversi anche noi, era diverso il movimento, aveva una forza di rottura davvero molto grande, la reazione dei maschi secondo me te la dimostra, insomma, no? Era adeguata a quello che ha portato. Esatto, cioè veramente era molto fastidioso il fatto che noi fossimo tutte insieme, capito? Dava molto fastidio. Adesso, come dire, è una celebrazione, non dai più fastidio a nessuno. Grazie Susanna. Allora, per il martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa, autogestito di Radio Onda Rossa, e qui siamo con Edda che ci dirà il suo 8 marzo, quello che ricorda, quello che per lei è stato più significativo, eccetera. Sì, posso dirtelo, perché c'è stato un 8 marzo in cui io, come al solito, qui alla casa mi davo da fare per fare preparativi infiniti, no? E sono caduta su dei gradini che c'erano nella casa malmessi, mi sono rotto un piede e me lo hanno ingessato, e io ho fatto l'8 marzo comunque con Alma Sabatini che mi tirava la carrozzella, e sulla gamba c'era scritto Lesbo non è un'isola. Amore. E trovo che questo era una cosa bellissima, perché il fatto del lesbismo, che è una delle rivoluzioni più importanti che ci siano mai state, e noi le abbiamo fatto, sarebbe l'ora di riprenderlo un po' in mano, specialmente alle giovani. Ricordatevelo che non c'è un diritto acquisito dato per sempre, e soprattutto quello nostro è di una delicatezza infinita. Quindi io dico a tutte le giovani, prendetevi in mano, e se avete da difendervi in quanto lesbiche, fatelo, perché è una forza grande, infinita, e avrete tante compagne con voi. Grazie Edda, lo possiamo dire che tu siamo qui per festeggiare i tuoi anni, quanti sì, sono? Tanti, 80 se Dio vuole. E allora i miei primi 80 anni. Grazie Edda. Perché noi donne lesbiche capiamo molto, ecco, se Dio vuole. Ci fa bene essere lesbiche. Grazie Edda. È stato un piacere. Ciao. Ciao. Ciao. E tu, oh, che lei, se noi vorrei, non so, che lei, oh no, le mani, nessun pensiero stupendo. Poco strisciare, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire, e tu, amore, e lei, amore, vorrei, vorrei. Va a cadere, sai, può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, asce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, oh, e lei, lesbiche romane presenta è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.